Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È chiaro che c'è sempre la possibilità o il rischio che una palla di neve si ingrandisca e diventi slavina, quindi io spero che il Partito Democratico da qui alle prossime settimane, quando si andrà a votare, trovi un punto di equilibrio scongiurando l'equiparazione al matrimonio. Dunque, il ministro Alfano, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, fa questa metafora montanara per dire che se il disegno di legge sulle unioni civili resterà tale e quale, si dovrebbe votare il 26 gennaio, questo costituirà una palla di neve che diventerà man mano una slavina sul governo Renzi. Quindi sapete che il nuovo centrodestra, alleato del PD, nel partito di maggioranza relativa, da tempo dice attenzione che quel tema lì farà cadere il governo, perché noi non l'appoggeremo. Noi non ne vogliamo sapere di alcuni aspetti di questa legge. Pensate voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che effettivamente possa diventare questo disegno di legge una slavina sul governo, quindi possa cadere il governo o avere delle grosse difficoltà ad andare avanti? Come sempre, per le vostre opinioni, lo sapete, c'è lì per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi giorno e notte, oppure le vostre opinioni le potete mandare anche attraverso SMS al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Molti saranno gli argomenti questa sera. Fra questi anche parleremo, a proposito di politica, l'ex ideologo del Movimento 5 Stelle, Paolo Becchi, questo oggi alle 15 ha promesso che ci sarà qui a Effetto Notte, e sapete che ha lasciato il Movimento 5 Stelle perché si dice deluso, dice che il movimento sta diventando un'altra cosa, quindi dovrebbe essere poi qui più tardi a Effetto Notte. E quello che vi chiedo è, lui sostiene che il movimento di Grillo stia diventando una stampella di Renzi perché l'appoggia in diverse proposte di legge, di diversi disegni di legge, anche per esempio sulle unioni civili. Voi pensate davvero che questo stia diventando il Movimento 5 Stelle una stampella di Renzi? Anche questo è un tema che potete discutere attraverso le vostre opinioni, sia sulla pagina Facebook del programma, sia attraverso gli SMS al 349-238-6666. Ma gli altri temi sono il fatto che si torni di nuovo a parlare in modo, diciamo, preoccupato dell'emergenza immigrazione, perché ci sono alcuni paesi, ieri per esempio Danimarca e Svezia, che hanno detto che ripristineranno i controlli alle frontiere, e pare che anche l'Italia sia un po' intenzionata, anche se Alfano, poi lo sentirete, ha detto noi non vogliamo interrompere l'accordo di Schengen, però ci sono diciamo dei però, ecco, vediamo l'Italia di cosa è scontenta, di cosa è insoddisfatta su questo tema. Proprio ieri avete espresso le vostre opinioni su quella proposta, anzi su quel bando che ha lanciato il Comune di Milano per selezionare delle famiglie a Milano che vogliano accogliere dei profughi con un rimborso mensile che va dai 350 euro ai 400 euro. Questi tra i temi. Poi parleremo anche di una cosa, visto già, l'ho messo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, un'altra notizia importante e sconvolgente, di cui si è saputa notizia oggi, appunto, che il Capodanno in Germania è stato connotato a città di Colonia, ma non solo, da molestie sessuali nei confronti delle donne. Secondo le forze dell'ordine hanno agito un migliaio di uomini di aspetto nordafricano o arabo. Quindi un fatto molto molto grave, e anche questo sta suscitando molte polemiche anche da un punto di vista politico, può essere anche strumentalizzato, ma può essere anche un nuovo atteggiamento possibile, un rischio questo. Vedo anche su questo le vostre opinioni. Allora è il momento però di partire con il riassunto della giornata. Stati Uniti, Obama annuncia il suo piano per una stretta sulle armi da fuoco. Ogni anno uccisi 30.000 americani, ora basta, dice, sottolinea, le lobby delle armi possono tenere in ostaggio il Congresso, ma non possono tenere in ostaggio l'America. Migranti, nuovo naufragio al largo della Turchia, 34 i morti. L'Unione Europea convoca Svezia, Danimarca e Germania dopo la nuova chiusura di frontiere. Alfano assicura, non sospenderemo Schengen. Germania, a Capodanno molestie di massa alle donne a Colonia e in altre città. Secondo le forze dell'ordine sono stati un migliaio di uomini di aspetto nordafricano o arabo. Indignata la cancelliera Merkel. La tensione tra Arabia Saudita e Iran. Teheran sospende i pellegrinaggi alla Mecca finché i sauditi, dice, non garantiranno la sicurezza. Borse, interviene Pechino, i mercati finanziari rimbalzano dopo il lunedì nero, Piazza Affari chiude in rialzo dell'1,2%. E per il calcio torna la Serie A dopo la sosta natalizia con il derby Genoa-Sampdoria. Partiamo quindi da questa importantissima notizia che arriva dagli Stati Uniti. Per il momento è un annuncio, un piano, ma chiaramente Obama intende andare avanti. Questa attesa conferenza del presidente americano Obama, che oggi ha presentato appunto questo suo piano per limitare la vendita di armi negli Stati Uniti. Obama alla Casa Bianca è stato accolto da una standing ovation, come si dice. Ha detto che non è più tempo di scuse, non si può più rimandare, perché ogni anno, a causa della facilità con cui ci si può procurare le armi da fuoco, muoiono 30.000 americani. Ha sottolineato con forza: le lobby delle armi possono tenere in ostaggio il Congresso, ma non possono tenere in ostaggio l'America. E poi capiremo più nel dettaglio quali sono i punti principali di questo piano, collegandoci direttamente con gli Stati Uniti. Parliamo di migranti. C'è stato questo nuovo naufragio al largo della Turchia, 34 sono i morti, e l'Unione Europea convoca Svezia, Danimarca e Germania dopo le nuove chiusure di frontiere, mentre Alfano assicura: non sospenderemo Schengen. Noi non abbiamo intenzione di sospendere Schengen, non è vera questa cosa che è stata detta. Quello che abbiamo fatto, ma non è che lo faremo, lo abbiamo già fatto da settimane, è quello di rafforzare i controlli in funzione antiterrorismo. Poi torneremo in modo approfondito su questo tema dell'emergenza immigrazione e di quello che in realtà non si è fatto rispetto alle varie promesse. Germania, vi dicevo, sotto shock per le ripetute aggressioni sessuali ad almeno un centinaio di donne nella notte di Capodanno, successe soprattutto nella città di Colonia, ma denunce arrivano anche da Amburgo. Un caso questo che apre un delicato fronte politico sulle azioni, sulle politiche verso i migranti, e interviene direttamente la cancelliera Merkel. L'euforia del Capodanno, l'eco dei fuochi d'artificio, poi con l'aumentare della notte e dell'alcol, la festa di Colonia diventa un incubo per le donne, accerchiate, molestate, violentate da gruppi di uomini, pare arabi, lasciando sotto shock l'intera Germania e aprendo un difficile fronte politico sul tema dell'accoglienza che arriva fino a Berlino. Stavamo partendo, ma gruppi ci fermavano, ci derubavano e toccavano ora il seno, ora le gambe. Una dietro l'altra le vittime raccontano le violenze subite davanti alla stazione o nei pressi del Duomo. Più di 90 le denunce ricevute dalla polizia, convinta che aumenteranno ancora perché era composta da più di un migliaio di uomini, la banda di ubriachi, protagonisti di una nuova forma di criminalità organizzata. Ammette un preoccupato ministro della giustizia, Heiko Maas, che cerca di allontanare ogni rischio di strumentalizzazione delle politiche verso i rifugiati, come fa anche il sindaco Henriette Recha, a cui direttamente la cancelliera Angela Merkel chiede una dura risposta a questi disgustosi reati, ha detto, e la condanna dei colpevoli da dovunque arrivino. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si continua a parlare, naturalmente, perché c'è sempre questo incalzare, questa escalation, si dice, della tensione tra Arabia Saudita e Iran, dopo che è stato giustiziato questo imam sciita in Arabia Saudita. Ormai la tensione alle stelle, sono stati bloccati i pellegrini alla Mecca da parte dell'Iran. Ora è sospeso anche il pellegrinaggio alla Mecca e la tensione tra Arabia Saudita e Iran diventa ancora maggiore, facendo cadere nel vuoto gli appelli al dialogo, compreso l'ultimo delle Nazioni Unite. Teheran ha deciso di bloccare la Umra, il pellegrinaggio minore nella città santa, ufficialmente perché Riyadh, spiega il portavoce del governo, deve garantire migliori condizioni di sicurezza, vista l'ecatombe di settembre quando migliaia di pellegrini morirono nella calca, ma sulla decisione incombe la rottura tra i due paesi dopo l'uccisione del leader sciita al Nimr, i successivi assalti alle sedi diplomatiche saudite e l'interruzione delle relazioni con effetto domino nell'intera regione. Ora infatti anche il Kuwait richiama l'ambasciatore a Teheran. L'Arabia Saudita non può coprire il suo crimine dell'aver messo a morte l'imam, rincara il presidente iraniano Hassan Rouhani nel giorno in cui l'ONU prende posizione e in questa crisi condanna solo Teheran. Il Consiglio di Sicurezza invita l'Iran a rispettare gli obblighi internazionali di protezione delle sedi diplomatiche e invita le parti a mantenere il dialogo. Dalla Casa Bianca a Mosca alla Turchia, gli sforzi di mediazione si intensificano e per scongiurare che la crisi possa degenerare ancora, con conseguenze che nessuno può immaginare, l'inviato dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, visiterà prima Riyadh e poi Teheran. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come sono andate le borse oggi dopo ieri, quella giornata funesta, dopo questo grande ribasso mondiale che ha visto crollare i mercati dall'Asia e dagli Stati Uniti? Arriva il primo segno di rasseneramento proprio dalla Cina, che aveva dato il via questo lunedì nero. I mercati dell'area Asia-Pacifica hanno chiuso anche oggi in calo, anche se in modo più contenuto rispetto a ieri, mentre le borse cinesi, che proprio hanno provocato appunto questo calo globale, sembrano tranquillizzarsi. Questa maggiore tranquillità ha aiutato le piazze europee, con Milano in particolare che ha chiuso con un rialzo dell'1,2%. Andiamo sui prezzi in Italia, che rallentano ancora. Nella media del 2015 l'inflazione frena per la terza volta consecutiva, portandosi a più 0,1% dal più 0,2% del 2014. Un calo dei prezzi che non si vedeva da oltre mezzo secolo. Stando ai dati dell'Istat, il tasso di inflazione medio annuo nel 2015 è stato dello 0,1% dallo 0,2% del 2014. Bisogna tornare al 1959 per vedere valori così bassi. Il 2015, in particolare sul fronte dei prezzi, è stato segnato dalla caduta dei listini relativi ai carburanti. L'Istat rileva infatti per i beni energetici non regolamentati una diminuzione nel 2015 pari a meno 10,3, una flessione molto più forte di quella registrata nel 2014, dove già si era avuto un calo del 2%. Accelera invece la dinamica del cosiddetto carrello della spesa. I prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona diminuiscono dello 0,3% in termini congiunturali e aumentano in termini tendenziali dello 0,9%. A chiarire il quadro a livello europeo ci ha pensato la stima flash di Eurostat. A dicembre il tasso di inflazione annuale dell'area con la moneta unica è stato dello 0,2% stabile rispetto a novembre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questi dati arrivano nel giorno ufficiale dell'avvio dei saldi. Oggi sono partiti in tutte le regioni, aumento medio delle vendite del 5% rispetto al 2015, anche se secondo un sondaggio condotto da Confesercenti ci sono delle differenze profonde tra le varie regioni. Siamo alla politica, che oggi è stata dominata dai 5 Stelle, in particolare, vi dicevo all'inizio, dall'addio al movimento di Grillo dell'ex ideologo Paolo Becchi, che accusa il movimento di essere ormai diventato la stampella di Renzi. Ci sarà più tardi qui Effetto Notte. Becchi, voi cosa ne pensate? Effettivamente il Movimento 5 Stelle si è trasformato in questo modo, in una specie di stampella, di toppa, quando Renzi, il governo Renzi, è in difficoltà? 349-238-6666 per i vostri messaggi via sms oppure le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. La cronaca: a Genova tre libici sono stati arrestati per terrorismo. Avevano sui loro telefonini foto di bambini armati, scene di guerra, di persone che inneggiano lo Stato Islamico, la bandiera del califfato con la dichiarazione di adesione all'ISIS. I tre dicono di essere commercianti d'auto, ma per gli investigatori potrebbero essere fiancheggiatori e il commercio d'auto potrebbe servire per finanziare l'ISIS. E siamo al calcio. Vedo infatti che irrompe in studio Dario Ricci. Dario, come un fumogeno sei entrato praticamente. Beh, non mi dispiace questo stato gassoso. Vediamo dove mi porterà. Sicuramente c'era nebbia e fumogeni che hanno ritardato l'inizio del derby di Genova, con cui il campionato ritorna, no? Roberta, so che ti è mancato moltissimo. Moltissimo, e sì. E fortunatamente possiamo metter fine a questa astinenza da calcio. 18ª giornata, derby della Lanterna, siamo al 27esimo di gioco con la Sampdoria in vantaggio sul Genoa, che gioca di fatto in casa, e il gol al 18esimo di Soriano, uno dei giocatori più importanti di questa dei blu cerchiati, tra l'altro pezzo pregiato del mercato, ambito anche e soprattutto dal Napoli. Ebbene, bravo Soriano a sfruttare un'imbeccata di Cassano, che oggi Montella rilancia dal primo minuto, ma grandi colpi anche soprattutto per la difesa del Genoa, che ha sicuramente facilitato l'inserimento e poi la conclusione in gol del centrocampista Doriano. Quindi 28esimo di gioco, 1-0 per la Sampdoria sul Genoa. Poi domani tutte le altre gare, con l'Inter che va in trasferta a Empoli, trasferta insidiosa, perché l'Empoli mi pare che insomma sta andando bene, trascinata anche da sempre verde. Brava, vedo che le vacanze hanno portato consiglio. Mi sono dedicata solo a quello, per farmi trovare preparata. Quindi domani tornano anche le altre squadre. Sì, ma tu ci sei domani? Domani ci sono. Ah, allora siamo un'altra volta insieme. Con la scopa arrivo qui. No, permettendo, ecco. Non so se era questa la battuta. Allora domani possiamo raccontare, Dario. Anche domani sera Napoli-Torino, però tutte le altre gare dalle 15 poi alle 18, insomma, quindi non giornata vedo di campionato. Non vedo l'ora, Dario. Noi proprio di ora ci anche verso incomberò la fine con di tutti oggi. I gol di Napoli-Torino. Dicevi, scusa. Ma anche domani, anche dopo ci sentiamo, no? Sì, per gli aggiornamenti, con gli aggiornamenti. Stiamo già dando un addio, c'è una buona occasione per la Sampdoria, vediamo il cross al centro, la respinta della difesa genovana. Sì. A dopo Dario Ricci, a dopo, cara, grazie caro. Intanto diceva Genova-Sampdoria, quindi 0-1 per il momento. Diamo un'occhiata, prima di aggiornare chi sta viaggiando, anche i vostri messaggi cominciano ad arrivare sui vari argomenti. Per esempio questo ascoltatore che non si firma, il 349-238-6666, dice a proposito di Becchi che ha lasciato il Movimento 5 Stelle: un ideologo, anch'io sono un ideologo, gli ideologi del movimento sono tutti gli attivisti. E questo appunto è la tipica opinione, insomma, della democrazia allargata, del fatto di essere tutti uguali. Voi cosa pensate? Effettivamente, come dice Becchi, che lascia deluso il Movimento 5 Stelle, che stia diventando una stampella, una specie di, come si dice, quel pezzettino di legno che si mette sotto il tavolino che barcolla. Io sono di destra, dice Nicola, su un altro argomento, l'Unione Civile, abbiamo sentito all'inizio di Fatonotte Alfano. Io sono di destra, ma ritengo che i matrimoni omo siano più che legittimi, sono invece contrario alle adozioni, anche se vi è chiaro che le adozioni di cui parla il disegno di legge Cirinnà è quello che si definisce stepchild adoption, cioè l'adozione da parte di uno dei due partner del figlio naturale dell'altro. Questo è Nicola. Poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte sono vari gli argomenti, anche sui fatti di Colonia, della Germania, capodanno delle donne molestate in massa, da, secondo forze dell'ordine, da un migliaio di uomini di aspetto nordafricano arabo. Cominciano ad arrivare i vostri primi commenti. Cristiano dice: perché la forza fisica non può affrontare mostri in realtà più grandi di lei, ma il desiderio, la volontà, la potenza trascinano e puntualmente trovano nella donna un terreno di sfogo comodo, di dominio. Anche perché vi chiedevo su Facebook perché le donne nelle situazioni di guerra, di crisi umane, umanitarie in genere, di frustrazione, diventano sempre un facile pungibo. Le state rispondendo, Giuseppe: purtroppo nella mentalità di molti islamici la donna che non è accompagnata e non musulmana è terreno da possedere in quanto poco di buono. Spero che la Germania si svegli e cominci a fare pulizia, arresti ed espulsioni di queste persone indegne di stare nelle nostre nazioni, al di là adesso appunto della provenienza, comunque sicuramente indegne. Alberto: l'Europa, mollaccione musulmana, ha voluto accogliere miriadi di invasori, 20-30enni musulmani, illudendosi che sarebbero diventati perfetti cittadini per la gratitudine, non lo sapevano la Merkel, il Papa scalzo in moschea, eccetera. Luca scrive: chi compie questi atti lo fa per scarsa o nulla considerazione verso le vittime, indipendentemente da guerre o altro, i reduci delle guerre come mio nonno erano tutti degli stupratori? Non credo, naturalmente no, per fortuna Luca, non tutti, però diciamo che in certe situazioni poi diventa questo il meccanismo. Molti altri messaggi proprio anche su questo argomento, ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco, giusto l'aggiornamento per chi viaggia, tra poco vi aggiornerò anche sulle notizie più importanti, ogni poco magari qualcuno accende la radio invece di farlo puntualmente alle 21, quindi giusto anche dar le notizie più importanti ogni poco. Stavo guardando ancora i vostri tanti messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, a proposito di tanti argomenti, vedo che vi dicevo prima state scrivendo molto sul capodanno da incubo delle donne in Germania. E ancora c'è Stefano, dice: se fosse successo in Italia ci sarebbe stato sicuramente qualcuno che li avrebbe giustificati, anche sono anche loro risorse, dicendo che sono anche loro risorse. Marilena: la notizia è pessima, delinquenza allo stato puro, altro che letture antropologiche e simili. Dice a proposito di questo migliaio di uomini, secondo gli inquirenti in Germania, di aspetto nordafricano arabo, che hanno molestato sessualmente, anche violentato alcune donne, si parla di un centinaio a Colonia, anche ad Amburgo e in altre città tedesche durante il capodanno. Giorgio dice: è vero anche allora che c'è una guerra tra società, se è vero quello che è successo, onestamente libero da soluzioni preconfezionate, me lo sto chiedendo, e se c'è quanto parziale è questa guerra. Massimo dice: bella l'integrazione della Merkel, questo per quanto riguarda questo tema. Gli altri temi sono appunto Paolo Becchi, ideologo, ex ideologo a questo punto del Movimento 5 Stelle, che ha lasciato il movimento e che dice ormai è una stampella di Renzi, che cosa ne pensate, e anche sull'Unione Civile, Alfano che torna, diciamo, a minacciare con la metafora della slavina il governo Renzi, dicendo: se questa cosa delle unioni civili, la legge passa così com'è, c'è rischio per il governo. Ma vi ricordo le notizie principali prima di salutare il primo ospite. Stop alle armi, Obama in lacrime, commosso, annuncia la stretta sulla vendita delle armi, dice: ogni anno restano uccisi 30.000 americani, ora basta. Migranti, ancora un naufragio, 36 morti in Turchia, il gelo uccide un bimbo siriano, intanto l'Europa è preoccupata, Schengen sotto pressione, Bruxelles convoca un vertice straordinario. L'Iran, a proposito della tensione tra Arabia Saudita e Iran, che sospende i pellegrinaggi alla Mecca, Riyadh nel mirino, attacchi alle sedi diplomatiche, lettere di protesta all'ONU sia da parte dell'Arabia Saudita che dell'Iran. E poi la Cina che immette denaro dopo il rosso delle borse di ieri per 20 miliardi, le borse restano abbastanza fredde, non un vero rimbalzo, però Piazza Affari la migliore d'Europa con un più 1,2%. E poi sulle unioni civili, tensione anche all'interno del PD e poi scontro tra Alfano e la minoranza del PD, mentre vi dicevo l'ideologo Becchi lascia il Movimento 5 Stelle perché dice la stampella di Renzi. E poi questo capodanno da incubo a Colonia, in Germania decine di donne aggredite da africani arabi. La polizia dice i responsabili sono appunto un migliaio di arabi o nordafricani, 90 le denunce per reati sessuali. È cominciato quindi un anno nuovo, ma molti problemi restano tali quali, anzi in certi casi peggiorano. Parliamo dell'emergenza immigrazione perché continuano gli sbarchi, come gli arrivi anche in Europa attraverso le altre rotte, si ripetono le stragi. Continua a aggravarsi il bilancio dei naufragi di migranti avvenuti la scorsa notte al largo della costa Egea della Turchia, ve lo dicevo prima, sono 36 morti ed è di ieri la notizia che altri due paesi, fra i vari riottosi, Svezia e Danimarca, hanno deciso di ripristinare i controlli alle frontiere per far fronte appunto a questa pressione, all'emergenza migranti. Decisione che ha spinto l'Unione Europea, nella persona del commissario all'immigrazione Avramopoulos, a convocare per domani i ministri di Svezia, Danimarca e Germania di fronte a, per cercare diciamo, un maggiore coordinamento fra i vari paesi dell'Unione Europea. E pare che anche l'Italia stia pensando di ripristinare il controllo alle frontiere con la Slovenia di fronte a un aumento del flusso dei migranti dalla chiusura delle proprie porte già comunicate da diversi paesi, appunto anche Svezia e Danimarca. Quindi l'Italia si preoccupa, dice non è che a questo punto chiudono da una parte, chiudono dall'altra e noi ci ritroviamo di nuovo con il rischio che i profughi, coloro che scappano dalle guerre ma anche dalla povertà, vengano tutti verso di noi. E intanto c'è il ministro degli esteri tedesco Steinmeier che ha detto che la libertà di circolazione, quindi l'accordo di Schengen in Europa, è a rischio e in un'intervista alla Bild ha spiegato: in Europa dobbiamo mirare tutti allo stesso scopo, trovare una soluzione europea per il flusso di profughi e proteggere anche nello stesso tempo le nostre frontiere. Ma come? A questo punto lo chiediamo ad Antonio Villafranca, che è responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Villafranca. Buonasera a voi. Vorrei far sentire anche prima un breve passaggio sia del vice ministro dell'interno Bubbico oggi a Sky TG24 a proposito della possibilità che anche l'Italia valuti di tornare a controllare in modo più serrato le proprie frontiere e poi anche il ministro dell'interno Alfano. Sì, sul piano tecnico siamo in grado di attivare tutte le misure a tutela del nostro paese. Il problema non è di avere la forza o la capacità tecnica per farlo. Il problema è di valutare l'opportunità politica e noi vogliamo dire all'Europa che se dovesse prevalere la logica interna che alimenta gli egoismi, noi sapremmo farlo, ma non è questa la strada che noi vogliamo percorrere, perché noi pensiamo che questo problema debba essere affrontato da tutti. Noi non abbiamo intenzione di sospendere Schengen, non è vera questa cosa che è stata detta. Quello che abbiamo fatto, ma non è che lo faremo, lo abbiamo già fatto da settimane, è quello di rafforzare i controlli in funzione antiterrorismo. Insomma, Antonio Villafranca, qui mi sa che tutti questi vertici, adesso è stato riconvocato questo vertice d'urgenza dell'Unione Europea che richiamava, dicevo, Danimarca, Svezia e Germania, tutti questi vertici alla fine a cosa hanno portato di concreto? Finora nulla, hanno portato moltissime parole. Tutto sulla carta, sembra tutto bellissimo, anche perché in realtà ormai si sanno quali sono le misure che andrebbero prese. Le misure sono anche diciamo abbastanza razionali. C'è stato il vertice a Malta perché c'è ovviamente il flusso dei migranti che arrivano dai paesi africani. C'è stato già un incontro, ci sono appunto degli accordi che si dovrebbero completare con la Turchia per il flusso che poi sale dai Balcani. È già rafforzata Frontex, sono previsti ricollocamenti. Il punto è che tutte queste misure, tante altre, sono appunto sulla carta, non vengono implementate o vengono implementate soltanto in minima parte. E allora ormai si sta creando una situazione quasi direi di fobia collettiva, in cui l'importante non è cercare di risolvere il problema, che è sicuramente un problema grave, ma assolutamente risolvibile. L'Europa ha decisamente le risorse umane e finanziarie per risolvere il problema. Il problema è un problema politico, ci sono tanti partiti politici in giro per l'Europa che hanno capito benissimo che sul tema delle migrazioni si acquistano o si perdono molti voti, e quindi questo effettivamente sta facendo sì che si richiuda. È impressionante, devo dire, quello che accade con la Svezia. Sembra che, insomma, la mossa della Svezia sia uguale a quella fatta da altri paesi. Però se l'ultranazionalista Orban in Ungheria, diciamo, chiude le frontiere, sì, possiamo anche biasimarlo, però non ci sorprende. Se lo fa la Svezia, che è il paese che di gran lunga, diciamo, ha di più ospitato, sulla base ovviamente di quella che è la sua popolazione, i rifugiati, che anzi fa dell'ospitalità dei rifugiati politici e dei richiedenti asilo una delle caratteristiche peculiari proprio del suo essere stato, allora questo è veramente preoccupante e genera anche, diciamo, delle reazioni a catena. Abbiamo visto che poi la Danimarca a sua volta ha chiuso, diciamo, i confini, o comunque ha inasprito i controlli nei confronti della Germania. La Germania l'ha già fatto nei confronti dell'Austria, noi forse lo potremmo fare nei confronti della Slovenia, che l'ha già fatto nei confronti della Croazia, e così via. Non si finisce mai e non si risolve il problema. Tra l'altro, Antonio Villafranca, c'è stato anche chiaramente questo flop di ricollocamenti, come dice Alfano, perché dovevano essere ricollocati 80 rifugiati al giorno, se non sbaglio, ma in più di 3 mesi da quando era stata presa questa decisione si è a quota 240. Sì, siamo veramente a dei risultati che non rasentano, sono pienamente ridicoli. Dovrebbero essere ricollocati 100.000 persone tra Italia e dall'Italia e dalla Grecia, siamo appunto nell'ordine di 200 unità, quindi praticamente nulla. È anche vero, ad esempio, che noi avremmo dovuto attivare 6 hotspot in Italia, ce ne sono 2, diciamo il secondo l'abbiamo avuto soltanto perché a Trapani il 24 dicembre è stato, diciamo, inaugurato. In Grecia avrebbero dovuto essere 5, ce n'è soltanto uno. Allora il problema è che... Cioè questi centri, perdon Villafranca, centri di identificazione, no? di prima accoglienza sono gli hotspot praticamente. Sì, in cui però appunto vengono identificate le persone anche con la finalità eventualmente di ricollocarli secondo quelle che sono le quote su cui ci sarebbe appunto già un accordo. Ma la vera questione è, diciamo, cercare di vedere il problema per quello che è. È impensabile che chiudendosi ciascun paese risolva il problema. Cercare di scaricare sul paese accanto il problema chiudendosi non, assolutamente è impossibile, non può risolvere la questione. Sembra banale dirlo, ma la risposta non può che essere europea. La Commissione, ad esempio, ha avanzato l'ipotesi di una sorta di guardia costiera europea, diciamo una specie di Frontex molto più rafforzato, ma è la strada, diciamo, inevitabile. È la strada che dice che è compito di tutta l'Unione Europea, quindi andando ben oltre i trattati ovviamente di Dublino, è compito di tutti sorvegliare le frontiere. La risposta è quello di sorvegliare bene appunto le frontiere esterne, non certamente di chiudersi all'interno, perché poi è la gente che paga, diciamo, il prezzo di questo. Faccio soltanto un piccolo esempio. Tra diciamo, la Danimarca e la Svezia, il ponte che unisce Copenaghen appunto alla Svezia, ecco, il tempo di percorrenza dopo appunto i controlli che sono stati innalzati è praticamente raddoppiato, e questo colpisce gli svedesi, colpisce i danesi che si spostano tra i due paesi, e quindi colpisce i cittadini, cioè l'atteggiamento di chiusura colpisce i cittadini e non risolve il problema. Questo è un dato di fatto, cioè è necessario solo un sano pragmatismo, ecco, nell'affrontare il tema. Prima di sentire di nuovo Alfano che parla dei ricollocamenti dei punti della strategia italiana, le volevo chiedere, Villafranca, lei ha sentito di questi fatti di Colonia? Sì. Può essere, anche questi fatti possono a volte essere, per quanto gravissimi, magari strumentalizzati per chiudersi ulteriormente. È diventato in Germania anche un attacco diretto alla politica di apertura della cancelliera Merkel, no? Nei confronti dei migranti. Ma non c'è dubbio, la cancelliera Merkel ha all'interno della componente bavarese, che come sappiamo ha fatto delle richieste molto nette alla Merkel di non superare certi tetti per il 2016, non più di 200 migranti, e ovviamente monta la protesta. Questi ovviamente fatti non aiutano, però anche lì dobbiamo sempre circoscrivere l'accaduto. Dove c'è ovviamente povertà, dove non c'è inclusione sociale, purtroppo cose come questo succedono. E il dato invece più drammatico è il fatto che ci siano molti, troppi partiti politici in Europa che sono prontissimi a cavalcare appunto questi sentimenti xenofobi per finalità ovviamente elettorali. Chiaro che chi si è reso colpevole di questi reati va assolutamente punito, anche perché appunto va a danno stesso degli immigrati invece che non hanno atteggiamenti e intenzioni di questo tipo. Su questo non c'è dubbio, su questo non ci piove, ci mancherebbe. I reati sono reati e valgono per gli immigrati come valgono per noi. Per chiudere, allora, sentiamo un attimo se la convince Villafranca questa dichiarazione di Alfano sulla strategia, i punti centrali della strategia italiana. Ci sono tre pilastri di una strategia. Uno, gli hotspot, cioè separare i migranti irregolari da quelli dai profughi. I profughi si devono redistribuire in Europa e i migranti irregolari si devono rimpatriare. Arriviamo quindi al secondo punto, il ricollocamento. Non sta funzionando per egoismi nazionali e quello che sta avvenendo in Danimarca e in Svezia è il frutto di non avere preso per tempo, non avere capito, non avere fatto questo gesto di responsabilità e di solidarietà comune. Terza questione, i rimpatri. Gli irregolari, i migranti irregolari devono essere rimpatriati. Cioè, questa sarebbe la strategia, il fatto è che per ora, insomma, la questione non funziona, no? Dicevamo... Sì, questi tre punti sono sicuramente importanti, che ovviamente non sono gli unici. La verità anche su questo è perché molti partiti politici cercano di veicolare il messaggio che è semplice trattare la questione, basta un'unica soluzione, respingiamo tutti, oppure dall'altro lato si potrebbe dire accogliamo tutti. No, è un problema complesso, affrontabile, per cui è necessario, diciamo, poi dotarsi di varie misure, sicuramente le tre che ha indicato Alfano, ma anche un dialogo serrato ad esempio con i paesi africani. È stato fatto un primo tentativo a Malta, però i fondi che erano stati, diciamo, stanziati ancora non sono arrivati, i fondi che dovevano andare in aiuto a questi stati africani che semplicemente non si fidano di noi, e hanno ragione a non fidarsi di noi perché ci vedono continuamente spaccati, perché mai dovrebbero fidarsi di noi. Un dialogo inevitabile con la Turchia per i flussi che sono in transito verso la Grecia, e bah, ovviamente dietro tutto ciò c'è l'inevitabile questione medio orientale, la crisi siriana, uno sforzo di politica estera che è assolutamente necessario. Quindi è in realtà un problema molto complesso e, come tutti i problemi complessi, ha bisogno di una serie di iniziative e di misure. Quelle di Alfano sicuramente sono alcune delle misure. Vediamo cosa succederà in questo anno nuovo. Intanto buon anno, Antonio Villafranca. Grazie anche a voi, buona serata. Grazie, buona serata. Prima di lasciarci, vi ricordo, anzi vado a vedere i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, ma vedo che la partita, il derby Genoa-Sampdoria, per il momento è condotto dalla Sampdoria per 2-0, quindi c'è stato il secondo gol della Sampdoria, si sta giocando a Genova. E intanto, a proposito dei vari temi che vi ho lanciato questa sera, un ascoltatore scrive: Renzi sarà travolto da uno tsunami, le unioni incivili, dice, evidentemente contrario alle unioni civili questo ascoltatore o ascoltatrice. Mettete anche un nome d'arte quando non vi firmate. Poi invece Ale scrive: non vorrei che fosse proprio Becchi la stampella del PD andandosene a giro per i media a far prendere voti ai 5 Stelle, così dice. Poi sugli altri temi, anche per esempio appunto sempre sulle unioni civili, con Alfano che vi dicevo che ha detto che il disegno di legge sulle unioni civili, che si vota a fine gennaio, potrebbe diventare una slavina man mano, da una palla di neve una slavina sul governo Renzi. Secondo voi come potrebbe andare a finire? Cosa ne pensate? Maurizio scrive che una mano lava l'altra e tutte e due lavano. Vela scrive: povero Alfano, deve pur trovare un'occasione per avere un po' di visibilità, la gente deve sapere che esiste anche lui, la caccia al voto dei cattolici è sempre aperta. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie e anche le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, con gli sms al 349-238-6666. Tra poco parleremo di una decisione importantissima del presidente americano Obama e già arrivano le prime reazioni, per esempio dall'Arizona. Ne parleremo tra poco. Vedo i vostri messaggi, anche il WhatsApp, che però leggo meno perché è piccolissimo. Il Movimento 5 Stelle, dice un ascoltatore, non è la stampella di Renzi. Voi lo siete, cioè noi. Non divulgate false notizie, bugiardi e servi. Massimo da Firenze. Grazie Massimo. Poi Invece Becchi dice un altro: mai stato nel movimento, quindi come può lasciarlo? Vabbè, è stato considerato simpatizzante, ideologo, eccetera. Stefano da Genova: manganellate tutti i delinquenti, sono da espellere, a proposito di quello che è successo a Colonia in Germania e in diverse altre città a Capodanno, questo molestie di massa nei confronti delle donne. Continuate con le vostre opinioni anche sulle unioni civili, e intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti prima di salutare il prossimo ospite e di parlare di questo annuncio importante appunto in America. Questo: Obama annuncia il suo piano per una stretta sulle armi da fuoco. Ogni anno uccisi 30.000 americani, ora basta, dice, sottolinea, le lobby delle armi possono tenere in ostaggio il Congresso, ma non possono tenere in ostaggio l'America. Migranti, nuovo naufragio al largo della Turchia, 36 morti. L'Unione Europea convoca Svezia, Danimarca e Germania dopo le nuove chiusure di frontiere. Alfano assicura: non sospenderemo Schengen, ne abbiamo appena parlato. Germania, Capodanno, molestie di massa alle donne a Colonia e in altre città. Secondo le forze dell'ordine sono stati un migliaio gli uomini di aspetto nordafricano arabo, indignata la cancelliera Merkel. La tensione tra Arabia Saudita e Iran. Teheran sospende i pellegrinaggi alla Mecca finché i sauditi, dice, non garantiranno la sicurezza. Borsa, interviene Pechino, i mercati finanziari rimbalzano dopo il lunedì nero, Piazza Affari chiude in rialzo dell'1,2%. Calcio, torna la Serie A dopo la sosta natalizia con i derby Genoa-Sampdoria, per il momento 0-2 per la Sampdoria. Era un tema sul quale il presidente americano Obama è intervenuto tante volte, in particolare dopo ogni strage, che negli Stati Uniti, sapete, purtroppo sono fenomeni molto frequenti. L'ultima terribile in ordine cronologico, quella di San Bernardino in California, in un centro per disabili, vi ricordate, lo scorso 2 dicembre, in cui furono uccise 14 persone, 21 quelle ferite, e l'FBI parlò di un atto di terrorismo. Il tema è quello di una stretta, di un giro di vite sulla facilità con cui negli Stati Uniti i privati cittadini possono procurarsi le armi. A dicembre negli Stati Uniti, pensate che sono state vendute nel solo mese di dicembre più armi in un solo mese rispetto agli ultimi 20 anni. Sentiamo che annuncio ha fatto oggi Obama alla Casa Bianca. Every single year more than 30,000 Americans have their lives cut short by guns. We are the only advanced country on earth that sees this kind of mass violence erupt with this kind of frequency. Ogni anno, ha detto Obama, più di 30.000 americani sono stati uccisi dalle armi da fuoco e siamo l'unico paese al mondo in cui le stragi avvengono con tale frequenza. Effettivamente, dice, non siamo qui per discutere dell'ultima sparatoria di massa, ma per aiutare a prevenire la prossima. Ne parliamo con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Ciao Marco. Salve, ciao. Quindi è stato un annuncio importantissimo questo, perché Obama, dicevo, ne ha parlato ogni volta della necessità di regolamentare l'acquisto delle armi, no, negli Stati Uniti, sempre più incalzante in questo, soprattutto poi arrivando alla strage di San Bernardino. Sembrava che fosse una cosa che dovesse rimanere sempre come una specie di monito, però ha deciso già ieri, aveva anticipato Obama, che avrebbe anche scavalcato il Congresso, perché dice: io ne ho le competenze, le possibilità, insomma, ho il diritto e dovere di farlo. Era anche piuttosto commosso oggi, no? Sì, un annuncio importante, come dicevi, come ricordavi, che è stato evidenziato proprio questa importanza anche dalla sua aperta commozione, le lacrime che sgorgavano dagli occhi di Obama mentre parlava, mentre ricordava le vittime, alcune delle vittime più vulnerabili, più innocenti, cioè i bambini morti nel massacro di Sandy Hook nella scuola elementare di Newtown in Connecticut. Tra l'altro i genitori, alcuni dei bambini erano presenti all'annuncio di Obama, come anche molti altri familiari di vittime di questa strage continua che si verifica ogni anno in America, di cui Obama ha dato alcuni terribili, tragici dati, proprio per sottolineare l'urgenza di fare qualche cosa. Come dicevi, Obama ha giocato un po' la sua ultima carta, l'ultima carta della sua presidenza, per cercare proprio di fare qualche cosa. Ha bypassato in questo modo, in qualche modo, il Congresso, ha deciso di aggirarlo annunciando un ordine esecutivo che è di fatto composto da una decina di misure che non rappresentano una radicale riforma delle leggi sulle armi in America, cosa che lui stesso avrebbe auspicato, ma una interpretazione, una estensione delle leggi esistenti nell'ambito dei suoi poteri, di quelli che lui ritiene siano i suoi poteri presidenziali. Quindi rafforzerà controlli sulle pedine penali e sulle informazioni dei compratori di armi, rafforzerà gli obblighi di ottenere licenze da parte di chi le armi le vende. Oggi ci sono molte esenzioni per per venditori informali di armi, per esempio alle fiere delle armi o su internet, che non sono tenuti né ad avere licenze per venderle né a effettuare controlli su chi le compra. Ecco, centinaia, migliaia di armi vengono vendute ogni anno, forse anche 90-100.000 armi, senza alcun tipo di requisito di controllo. Ecco, queste alcune delle misure, altre prevedono l'assunzione di un maggior numero di agenti dei bureau, delle SDI e dell'ATF, che sono incaricati, gli uffici federali incaricati dei controlli. Ecco, un maggior numero di agenti dedicati proprio ai controlli sulla diffusione delle armi, ai controlli sul background degli acquirenti e di chi le commercia, più altri stanziamenti per rafforzare comunque i controlli, anche i controlli digitali, diciamo, la centralizzazione delle informazioni. Ecco, tutte queste misure che sembrano, ha detto Obama, che sono di buon senso, sono misure che lui dice lanciare, far scattare senza bisogno dell'approvazione congressuale, quindi ha ordinato immediatamente alla sua amministrazione di farle entrare in vigore. Chiaramente l'opposizione repubblicana ha reagito duramente subito, dichiarando che nonostante le misure, nonostante la ragionevolezza delle misure, queste sono comunque anticostituzionali e sono comunque, a suo avviso, un abuso di potere. Senti, tra l'altro tutto questo, Marco Valsania, nel giorno in cui c'è stata una nuova tragedia in Georgia, una bambina di 2 anni che è stata uccisa da un altro bambino che, giocando con la pistola, l'ha uccisa. Fra l'altro leggo adesso dalle agenzie che l'Arizona, lo stato dell'Arizona, non vuole rispettare le norme sulle armi di Obama, è stato pronto ad approvare le leggi per fermare le azioni esecutive. Poi c'è un'altra agenzia di pochi istanti fa, nel giorno in cui il presidente Barack Obama ha presentato il suo piano esecutivo, lo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan, ha pubblicato un comunicato stampa in cui dice: dal giorno 1 il presidente non ha rispettato il diritto di possedere in modo sicuro e legale un'arma che la nostra nazione ha garantito sin dalla sua fondazione. Al posto di concentrarsi su criminali e terroristi, va contro i cittadini che rispettano la legge. Marco Valsania, che stai viaggiando, sempre in metropolitana, in ascensore, sei tu. Hai sentito, quindi già giro per l'America. Già l'opposizione, giustamente, devi osservare quello che succede in giro. Quindi senti, che possibilità ci sono? Intanto in che tempi potrebbero entrare in vigore questi ordini esecutivi di Obama e come potrebbero essere invece contrastati da chi non li approva? Ma diciamo che questa sarà un po' la battaglia, la battaglia politica e pratica, diciamo, di queste prossime settimane. Mm. Secondo l'interpretazione dell'amministrazione, questi ordini, essendo esecutivi, essendo, diciamo, nell'ambito dei poteri dell'amministrazione e non rappresentando nuove leggi, ma semplicemente un'applicazione, un'interpretazione di norme esistenti, dovrebbero già entrare in vigore rapidamente. Anche se dovranno essere definiti esattamente poi i criteri, diciamo, questi gli ordini esecutivi preannunciati di Obama dovranno poi essere messi nero su bianco con dei criteri precisi. Per fare un esempio, ecco, Obama appunto ha annunciato che dovranno essere ampliate gli obblighi di licenza richiesti ai venditori di arma, però non ha precisato quale sarà il criterio usato, cioè se questi obblighi saranno imposti a chiunque venda, per dire, non so, più di 50 fucili all'anno o pistole all'anno, oppure quale sarà il criterio usato per definire chi deve richiedere, chi dovrà ottenere una licenza e chi invece potrà farne a meno. Tutti questi aspetti concreti dovranno essere definiti dalla stessa amministrazione prima che poi gli ordini esecutivi vengano poi messi in pratica. Però ecco, i tempi potrebbero essere anche relativamente brevi dal punto di vista dell'amministrazione. Resta però da vedere se questo sarà poi possibile in pratica. Come ricordavi tu, l'Arizona, ma anche molte associazioni pro armi, hanno preannunciato ricorsi in tribunale, denunce, proprio per bloccare comunque l'entrata in vigore di qualunque normativa, e il Congresso, la maggioranza del Congresso, come ricordavi tu, la dichiarazione dello speaker, del Presidente della Camera, Ryan, ha fatto capire che, appunto, non importa queste, che Obama ritenga queste misure modeste, lui le ritiene comunque un attacco al secondo emendamento, al diritto assoluto degli americani di portare armi, che quindi non offriranno al presidente alcun appoggio, anzi cercheranno di fermare qualunque stanziamento di fondi che debba in qualche modo passare al Congresso, qualunque, e sosterranno qualunque, diciamo, azione per bloccare, anche legale, per bloccare le norme. Scrive un ascoltatore su WhatsApp: non capirete mai che la libertà di possedere armi è l'unico mezzo che i cittadini hanno per far paura allo Stato. In realtà non dovrebbero far paura allo Stato, se proprio magari ai delinquenti. Questo sancisce la Costituzione americana, che al vostro Obama piaccia o meno. Comunque, insomma, vedremo se è l'anno della svolta in questo senso, secondo appunto le intenzioni di Obama, oppure no. Come dici tu, si sta giocando, insomma, le ultime carte della sua presidenza. Grazie a Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Grazie a voi. Ciao. E buon anno a Marco. E intanto, prima di questa ulteriore pausa per aggiornare sempre chi sta viaggiando, molti sapete che ascoltano viaggiando, a proposito del quello che è successo in Germania, di queste molestie di massa nei confronti delle donne da parte di un migliaio di uomini di aspetto nordafricano-arabo, così dicono le forze dell'ordine, con l'indignazione della Merkel che dice saranno puniti tutti i colpevoli. Continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note, anche al 349-238-6666. Maria Cristina dice, a proposito delle donne che appunto rischiano sempre di diventare capri espiatori nelle crisi, nelle guerre, ma anche nelle situazioni di frustrazione, dice: perché la cultura del maschio è quella del dominio sulla femmina. Ho detto maschio e non uomo, consapevolmente usando questo termine, perché ritengo chi usa violenza sulle donne non sia un uomo. Voi continuate, tra poco ci dovremmo raggiungere il professor Becchi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. C'è da dire, visto che abbiamo appena parlato appunto del piano di Obama presentato oggi alla Casa Bianca per dare un giro di vite sulle armi da fuoco, che pensate quali sono poi le reazioni? Non solo c'è stato questo corri-corri a comprare le armi, soprattutto dopo la strage di San Bernardino, perché molti immaginavano che avrebbe imposto delle restrizioni Obama, no? Ma il produttore di armi numero uno della nazione degli Stati Uniti, Smith & Wesson, pensate, è balzato a Wall Street, il titolo ha guadagnato oltre il 10%, per capire anche come funzionano poi queste dinamiche, questi meccanismi. Ora passeremo però alla politica italiana tra pochissimo. Vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Stop alle armi Obama, ne abbiamo appena parlato, appunto in lacrime ha annunciato la stretta, ogni anno ha sottolineato restano uccisi 30.000 americani, è ora di dire basta. E poi migranti, ancora una strage, 36 morti in Turchia, al largo della Turchia il gelo ha ucciso anche un bimbo siriano, e l'Unione Europea preoccupata, dice, Schengen sotto pressione, convoca un vertice straordinario. L'Iran, a proposito della tensione tra Arabia Saudita e Iran, sospende i pellegrinaggi alla Mecca, Riad nel Benino attacchi alle sedi diplomatiche, lettere di protesta all'ONU sia da parte dell'Iran che dell'Arabia Saudita. E poi l'Osservatore Romano contro Charlie Hebdo, era l'anniversario dell'attacco al giornale satirico francese, dice la fede viene manipolata. E poi la Cina che immette 20 miliardi per rialzare i mercati, le borse però restano fredde, non hanno un vero rimbalzo, Piazza Affari migliore d'Europa però con più 1,2%. Unioni civili, tensione nel PD e scontro anche tra Alfano e la minoranza PD. E poi parleremo tra poco dell'addio di Paolo Becchi al Movimento 5 Stelle. Capodanno da incubo in Germania, in particolare a Colonia, decine di donne aggredite da un migliaio di persone, di uomini arabo-africani. E poi che la polizia dice, insomma, che hanno cercato di reagire le forze dell'ordine, ma erano incuranti questi uomini ubriachi. Saluto il professor Paolo Becchi, docente di filosofia del diritto all'Università degli Studi di Genova, ex simpatizzante del Movimento 5 Stelle e soprattutto considerato, sino alle ultime ore, almeno ideologo del Movimento 5 Stelle. Buonasera, professor Becchi. Buonasera, signora, e a tutti gli ascoltatori. Io non sono mai stato ideologo di niente, però possiamo tranquillamente parlare della mia decisione di iscrivermi dal Movimento 5 Stelle. Ecco. Lei però è sempre stato definito con questo sì, termine, sì, no? Quello che gli ispiratori, altri mi, come vogliamo dire. E diciamo quello che gli altri hanno detto. No, io sono sempre stato semplicemente una persona simpatizzante che a un certo punto ha deciso di iscriversi al Movimento 5 Stelle perché lo riteneva un movimento capace di essere in grado di cambiare l'Italia e cambiare il nostro paese in meglio, tutto questo. Però evidentemente non ho fornito una teoria organica, forse, al Movimento 5 Stelle, delle idee, degli indirizzi, un obiettivo. Io sicuramente ho cercato di contribuire con il mio pensiero ad alcune idee del Movimento 5 Stelle, ma questo non ha niente a che fare con l'ideologia. Un movimento che si dichiara post-ideologico, al di là della sinistra e della destra, non ha bisogno di avere un ideologo, io non lo sono mai stato. Io ho cercato per l'appunto di creare questa idea di un movimento al di là della sinistra e della destra, e ora mi ritrovo con un movimento che praticamente, insomma, in qualche maniera sostiene Renzi provvisoriamente, insomma fa da stampella a Renzi, ecco, non me lo sarei aspettato. Perché dice questo? A me sembra, professor Becchi, probabilmente ricordo male, che il Movimento 5 Stelle più o meno dall'inizio avesse sempre detto ai suoi esponenti che non si alleavano con nessun partito, che non formavano maggioranze con nessun partito, che però valutavano di proposta in proposta, disegno di legge in disegno di legge, a seconda, insomma, se le cose... Lo so, però sopra votare tre insieme al Movimento, insieme al PD, tre membri alla consulta e senza una vera e propria discussione in rete, perché la rete per il movimento era sovrana, questo mi sembra già un cambiamento molto significativo. Cioè, sicuramente si possono fare degli accordi, ma gli accordi devono essere discussi e trovare anzitutto l'approvazione in base a quelle che erano le regole del movimento fino a poco tempo fa attraverso la rete. Qui non c'è stato alcun meccanismo che in qualche maniera prendesse una chiara posizione, per esempio sul voto riguardante la consulta dei tre membri che poi sono stati eletti alla consulta. Questa è stata una decisione che è stata presa da Casaleggio insieme al direttorio e alle persone che si occupavano di questo aspetto, del tutto segretamente, e un accordo con il PD. Questo non è nella logica del Movimento 5 Stelle, votando una persona come Barbera che fino a due settimane fa sul blog veniva descritto come una persona invotabile, e qui non c'è neanche più la coerenza, perché se tu scrivi che non lo voterai mai e due settimane dopo lo voti, e beh, insomma, qui c'è una chiara incoerenza nella linea politica che hai seguito. Secondo lei perché poi c'è stato invece questa... È questo, perché è stato un tentativo di aiutare Renzi e di togliere le castagne dal fuoco, perché Renzi come ne usciva? Cioè, questi tre membri non sarebbero stati eletti. A questo punto, dopo 50-60 fumate nere, a quel punto sarebbe stato necessario l'intervento del Presidente della Repubblica, e se il Parlamento non è in grado di adempiere una delle sue funzioni, il Parlamento deve essere sciolto. In questo modo si è evitata una grave crisi istituzionale, e il vero vittorioso di queste elezioni è Renzi, ma ci ha guadagnato anche il Movimento 5 Stelle, perché Barbera è un aiuto al Movimento 5 Stelle, la difesa dell'Italicum. Cioè, il Movimento 5 Stelle critica a parole l'Italicum, ma di fatto è del tutto favorevole all'Italicum. Anche questa doppia strategia, anche questo doppio gioco, anche questa politica opportunistica è tipica dei partiti, ma non dei movimenti autentici, spontanei, popolari. Professor Becchi, ma quindi l'obiettivo del Movimento 5 Stelle sarebbe, secondo lei, solo quello di far cadere il governo Renzi, ma poi i 5 Stelle governerebbero? No, assolutamente non cadere, anzi lo stanno sostenendo. Secondo lei, per rimanere coerente con se stesso, sì, con le proprie origini, dovrebbe far cadere il governo Renzi, e poi che farebbe? Ma no, semplicemente il Movimento 5 Stelle dovrebbe fare la sua politica di movimento esattamente come era nello spirito delle origini, discutere ogni singola decisione importante attraverso la rete e fare esattamente gli streaming come si facevano alle origini. Io sono per quel movimento che ha avuto 9 milioni di voti o qualcosa del genere nel 2013 e che faceva del tutto trasparente le sue attività. Ha più visto uno streaming di come lavorano i portavoci in Parlamento? Se ne ricorda uno, quando è il più recente? Si ricorda come funzionava il movimento alle origini? Sì, sì, non questo possiamo... lo ricordo, anche se magari allora... a volte ci sono delle evoluzioni, di sviluppo, delle involuzioni. Seconda seta, ma ah, mi pare... no, lo metto in dubbio, no? E questa è stata per me un'evoluzione da un movimento liquido ad un partito ibrido. Becchi, per chiudere, mi pare che non le sia andato giù neanche il sostegno, per ora almeno, a parole sulle unioni civili, no? Del Movimento 5 Stelle. Ma certamente, semplicemente è un nuovo sostegno. Di nuovo il governo poteva cadere sulle unioni civili e il Movimento 5 Stelle offre la stampella. Però il 5 prossimo... Stelle avranno pensato, forse per le tante coppie omosessuali potrebbe essere un vantaggio, una cosa positiva, non ha pensato forse sì, per se stesso. Non so se però per gli italiani l'idea che... le coppie omosessuali possono avere dei figli attraverso la fecondazione assistita sia ancora accettabile. Comunque, al di là di questo, questo aspetto non era nel programma del Movimento 5 Stelle e quindi, per prendere qualsiasi decisione a riguardo, si sarebbe dovuto fare una discussione sulla rete. Questa discussione non c'è stata. Le decisioni sono già state prese dal vertice del Movimento, dal vertice del nuovo partito, insieme al direttorio, e gli altri non faranno altro che votare quello che hanno già deciso. Chiarissimo, questa professore. Non è più la struttura del movimento, questa è una struttura di un partito super gerarchizzato. Grazie professor Becchi, grazie, buona Buonasera continuazione. Buonasera a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Grazie. Abbiamo un 3-0 per la Sampdoria, Dario Ricci. Eh sì, 3-0, cara Roberta, perché proprio in questi istanti, mentre parlava il professore, accento genovese, no? Come mai? Si stava perdendo il derby, ah, errore caspita, imperdonabile. Non mi è venuto in mente di chiedere, errore, ma era troppo appassionato direi. Sulla ebbene, sì, il 3-0 che è maturato, lo ricordiamo, 18esimo la rete di Soriano, il 2-0 di Edera al 39esimo e il 3-0 pochi istanti fa ancora con Soriano, in tutte e tre le occasioni decisivo con i suoi piedi di magici Fantantonio Cassano, che torna grande protagonista di questo campionato. Buon per lui, inizia bene l'anno, grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao Dario, noi ci stiamo alle 22.